Armin suona le sirene, gendarmi in armi che vorrebbe mettere catene. Codice civili vili, codici penali vari, sempre contro i cittadini e no contro gli infami. Tutti mi parlano di pace ed amore, puntiamo il cannone al signore quest'ora. Sequestriamo Jerry e rubiamo il milione, contro il resurrezione come il signore. Sulle strade fredde stesse volanti, le butti dal burrone ma non è bungee jumping. In caserma con lo sbirro buono, mi fa la farsa. Fermami voi di persone. Stanno arrivando urlando in massa come animali, no dentro i camion ma dentro i cellulari. Elicotteri dal cielo, il quartiere è sotto assedio. Questa notte non passa lo straniero. Spettacolo per il TG, passa montagne e click e fanno bank up. Shit, non si salva nessuno. I fari colpiscono il buio, mancherà l'appello il numero uno. Quando arriva loro fanno un boom. Anche se in borghese rifiutiamo e non ci siamo più. Ti fregano la prima, la seconda volta, ma la terza volta è tempo di svolta. Quando arriva loro fanno un boom. Anche se in borghese rifiutiamo e non ci siamo più. Ti fregano la prima, la seconda volta, ma la terza volta è tempo di svolta. Se ti alzi ogni giorno è 5 del mattino, da 20 anni zitto sempre solo con il capochino. Sniffi bianca per riprenderti un pochino. Se arriva la volante li ha chiamati il vicino. Tutto il giorno a lavorare ma non vale, bene o male. Puoi campare, è la rabbia che non vuole andare. Prima di arrivare a casa scazzo col tenente. Noi ne ha dato precedenza al presidente. Patenti, documenti, non lamentarti. Caparra sai ora devono umiliarti. Ti fanno la festa, questo non è un party. Nella stanza aspetti il capo di sti bastardi. Contraddittorio, giurano di mandarti in obitorio. Ci casca solo quelli senza il midollo. Ogni agente che passa ti mette alla prova. Insulti pestoni che non lascia nessun prova. Ma nessuno crede che questa è giustizia. Parli di guerra, lo stato ma è guerra fittizia. Per la guerra esistono le armi, lo striscioni per la ministra. Quando arriva loro fanno boom boom. Anche se in borghese li chiudiamo e non ci siamo più. Ti fregano la prima, la seconda volta, ma la terza volta è tempo di svolta. Quando arriva loro fanno boom boom. Anche se in borghese li chiudiamo e non ci siamo più. Ti fregano la prima, la seconda volta, ma la terza volta è tempo di svolta.